Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A mezzanotte salgo finalmente sulla Transiberiana, dove mi sento più sicuro e sono accolto da un tè offerto dal conduttore. Salve a tutti, mi chiamo Ettore, vivo a Siracusa, ho 66 anni, sono sposato e nonno di 4 nipotine e sono appassionato di viaggi. Io non lo so se in questi giorni voi siete in partenza oppure no, se vi aspetta un capodanno lontano, magari dall'altra parte del mondo o anche solo in montagna a pochi chilometri da casa vostra. Che siate in partenza oppure no, se rimanete invece a casa, oggi è una bella puntata da ascoltare. Mettetevi lì comodi comodi e sentitevi il racconto di un tizio, Ettore, l'avete sentito, che si attraversa tutta l'Unione Sovietica e arriva fino in Vietnam in treno. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma è Voi siete qui e io sono Matteo Caccia. Oggi, come al solito, raccontiamo storie. Raccontiamo una storia semplice, in realtà in questi giorni natalizi abbiamo un tema che è piuttosto ristretto, che è quello dei viaggi, quindi raccontiamo storie di viaggi, di aree di viaggi, l'abbiamo fatto ieri, lo facciamo domani e lo faremo fino ai primi di gennaio. Il programma però è un programma in cui raccontiamo storie di ogni tipo, storie che riguardano l'amore, il lavoro, la vita quotidiana, la scuola, qualsiasi cosa abbia un episodio che racconta qualcosa di voi. Voi siete qui, @radio24.it è la mail per mandarci il vostro racconto, una o due pagine. La storia di Ettore, vi dicevo, parla di uno splendido viaggio che Ettore ha fatto da solo in treno per raggiungere suo figlio che lavora in Vietnam e che dice: invece che andarci in aereo, sai cosa, mi prendo un mese e mezzo, un po' meno di un mese e mezzo, e ci vado in treno. Le stazioni che si vede e che vive Ettore sono diverse e quindi per questo motivo oggi vi chiediamo e abbiamo chiesto sul profilo Facebook del programma, sul profilo Twitter del programma Voi siete qui Radio 24, ma anche al 349-238-6666, qual è la stazione della vostra vita? Una stazione che per qualche modo, per qualche motivo vi è rimasta vicina, la sentite vostra. Saverio mi scrive: la mia stazione è quella di Rosignano Solvay. Abitava lì la mia prima fidanzata, che andavo a trovare con un treno locale lentissimo che partiva da Firenze. Adoravo lo scorcio di mare cristallino che si vedeva dai finestrini. Il famoso mare cristallino delle spiagge bianche di Rosignano Solvay, reso tale grazie proprio al bicarbonato. Emma: la mia stazione è quella di Bologna. Ci ho perso mio zio giovanissimo in quella stazione il 2 di agosto del 1980 e nonostante tutto non la odio, anzi quando ci torno la visito come fosse un mausoleo. 349-238-6666. Giulia: la mia stazione è quella di un minuscolo paese, si chiama San Giusto, la stazione è chiusa, il treno non ci passa più e l'edificio è mezzo diroccato, ma ci andavamo da ragazzini a fumare sigarette e a amoreggiare. 349-238-6666, le stazioni della vostra vita, ascoltatevi belli comodi comodi il viaggio di Ettore. Quest'anno ho realizzato uno dei miei sogni, quello di andare in Vietnam in treno. Via Transiberiana, Mosca-Pechino, quindi Pechino Hanoi, per arrivare fino a Da Nang, sempre in treno. Parto il 13 aprile da Catania e con un volo Air Baltic fino a Tallinn. Diciamo che il viaggio vero inizia da lì. Dalla capitale estone mi dirigo verso San Pietroburgo con un bus che parte a mezzanotte. Orario interessante per attraversare la frontiera russa di prima mattina. L'attraversamento avviene a Narva. Arrivo a Petrogrado verso le 10 e mi fermo in città 3 giorni. Visito la città, perlustro la stazione ferroviaria, da dove sarei partito con un treno veloce fino a Mosca in 4 ore. Parto alle 15 e arrivo alle 19 alla stazione Jaroslav di Mosca. Il mio treno, Mosca-Pechino, parte a mezzanotte. Sono emozionato e abbastanza preoccupato perché il posto non è del tutto rassicurante. Ladri di bagagli, ubriachi e ogni sorta di emarginati sostano lì in attesa di una valigia poco controllata. A mezzanotte salgo finalmente sulla Transiberiana, dove mi sento sicuro e sono accolto da un tè offerto dal conduttore. Io ho viaggiato tantissimo perché mio figlio vive da 12 anni in Oriente, lavora lì, e ho sempre viaggiato in moto, in aereo, però ho sempre sognato i viaggi in treno. Ho letto tanti libri, sono un appassionato di Terzani, il quale viaggiava in treno, e quindi la Transiberiana è un mito, non si può fare altrimenti. I miei compagni, una ragazza siberiana e uno studente universitario, sono socievoli. Vengo bersagliato di domande, essendo il primo italiano incontrato in vita loro. Attraversiamo la Russia europea fino agli Urali e dopo la seconda notte inizia la Russia asiatica, la Siberia vera. Quella della taiga infinita e dei villaggi immersi nel torpore. Durante la giornata il treno si fermava in varie città, tutte molto tristi, dove la cosa più bella era la stazione. Lì ci aspettavano le babushka per vendere cibi caldi e oggetti vari. Io compravo solo latte fresco e il kefir. Per il resto era autonomo, avendo fatto cambusa alla partenza. Dopo 4 giorni arriviamo a Buryasia, sul lago Baikal, regione di ribelli e sciamani. È bellissimo e sconvolgente. Lo costeggiamo per un bel tratto e alla stazione successiva compriamo il pesce affumicato del lago. Arriviamo ad Ulan-Ude, confine con la Mongolia. Credevo che l'avremmo attraversata, io avevo il visto, ma il conduttore mi dice che saremmo andati a destinazione via Manciuria. Pazienza, l'agenzia mi ha fregato vendendomi il biglietto sbagliato. La sera arriviamo a città. I miei compagni mi lasciano e resto quindi l'unico viaggiatore. Quest'ultima città appunto, è famosa per un penitenziario di sicurezza dove è rinchiuso Khodorkovsky, antagonista di Putin e uno dei proprietari della Yukos. L'indomani arriviamo a Zabaikal, confine con la Cina. Il conduttore mi dice di scendere per il cambio delle ruote. Lo scartamento cambia. Ci fermiamo 12 ore e i controlli doganali sono severissimi e duri. Perquisizione accurata e interrogatori minacciosi. In Cina, invece, il clima cambia. Tutto è più sereno. La regione che attraversiamo è modernissima. Campi coltivati perfetti. Città con grattacieli e stazioni nuovissime. Arriviamo a Pechino alle 6 del mattino del 7° giorno di viaggio. Sono frastornato, ma riesco a raggiungere facilmente l'albergo prenotato. La semplicità, la serenità dei siberiani che vivono in una terra ostile e poi anche la forza e la tranquillità delle donne vietnamite che sono riuscite a combattere una guerra e anche a vincerla, perché la guerra hanno vinto le donne. 5 giorni a Pechino. Scopro una città ultramoderna. Visito Piazza Tiananmen, la città proibita, la Grande Muraglia e il villaggio olimpico. Mi impadronisco della città, imparando a viaggiare in bus pubblico e anche in metropolitana. Parto da Pechino dopo 5 giorni e mi dirigo in Vietnam. 2 giorni e 2 notti. La Cina che vedo adesso è più interessante. Risaie, fiumi e montagne. La seconda notte, verso l'una, mi fanno scendere con i bagagli. Siamo alla frontiera con il Vietnam. Sono l'unico passeggero in entrata. Dopo i controlli e un'attesa di un paio d'ore arriva un treno malandato e traballante e sempre da solo arrivo ad Hanoi alla mattina alle 9. Conosco bene quelle temperature, ma il traffico degli scooter supera di gran lunga quello di Thailandia, Laos e Cambogia. La città risente del colonialismo francese, nell'urbanistica e anche nel cibo. È piena di americani, francesi e australiani. Di italiani, nessuno. Dopo qualche giorno mi imbarco sul treno che va a Da Nang, partendo alle 6 del mattino. 16 ore previste di viaggio. Familiarizzo con 3 australiani. Arrivo a destinazione dopo 18 ore durissime, dove ho pagato tutto il conforto avuto in precedenza. I paesaggi erano mozzafiato, ma il treno si fermava ad ogni casa. La gente saliva con tutto quello che possedeva e le toilette non erano posti per signorine. A mezzanotte scendo da quel treno maledetto e mi incontro con mio figlio. Lui lavora e vive là da 3 anni. Faccio 10 giorni di vacanza vietnamita visitando Hue, Hoi An e tutta la regione. Sogno tutte le notti di questo viaggio che rifarei volentieri, ma il prossimo lo farò al contrario e spero via Cina, Pakistan, Iran, Turchia. La via della seta, in poche parole. You live in Phnom Penh. I check my email. I'm too geared up to fall asleep. So I write you back and count the days until we'll be together. The first thing that I do is throw my arms around you and never let go. from my hotel room. I'm sitting on the hallway. La Transiberiana è una sorta di leggenda, un po' tipo l'Oriente Express. Sono quei treni che ti immagini caldi e comodi, con tappeti in velluto e scompartimenti che si trasformano in piccole camere da letto. Ho preso un treno per tornare a Novara dai miei prima di Natale e avevo letto da poco questo racconto di Ettore. La stazione era piena di gente. Le stazioni sono sempre piene di gente, a parte quelle dei paesi dove capita di incontrare persone che si conoscono o comunque magari ci si saluta anche solo per cortesia, la cortesia di chi si incrocia per le scale, ad esempio, o per un sentiero di montagna, però di solito non si conosce nessuno nelle stazioni. Quando ero piccolo, infatti, le stazioni grandi mi facevano paura, ed era una paura doppia. Era la paura di perdermi in qualcosa che non conoscevo e la paura delle persone che si potevano incontrare in quei posti pieni di gente sconosciuta. Alla stazione di Novara mi ci abituai piuttosto in fretta, anche perché non dovevo entrarci, rimanevo fuori, davanti al piazzale, ad aspettare l'autobus che mi portava a Romentino dopo la scuola. La stazione centrale di Milano, però, per me fu un trauma. Avevo 16 anni la prima volta che ci andai, e ci andai da solo. Ero diretto a Parma a trovare quella che speravo diventasse la mia prima vera fidanzata, e invece rimase il primo vero rimpianto. Partivo da Novara, cambiavo a Milano Centrale e ripartivo per Parma. Avevo poco più di 10 minuti di tempo per la coincidenza. Nella testa tutte le raccomandazioni dei miei genitori. Il portafoglio era infilato in una fascia legata attorno alla vita a contatto con la pelle, manco Milano fosse città del Messico. In una mano stringevo il biglietto e nell'altra il grippaudo. Ve lo ricordate il grippaudo? Il grippaudo era il libretto con tutti gli orari dei treni. Anche se facevi Como Milano per tutta la vita, su quel libretto c'erano segnati tutti i treni che attraversavano l'Italia e tu te li dovevi puppare tutti prima di trovare il tuo. Da Siracusa a Bologna, da Torino a Brindisi, passando per tutte le fermate intermedie. Potevi farti dei viaggi meravigliosi anche solo osservando la copertina gialla del grippaudo con disegnata sopra una mappa stilizzata delle linee ferroviarie nazionali. Il grippaudo non c'è più da qualche anno, probabilmente da quando esiste il sito di Trenitalia. Ho letto però da qualche parte che il signor Grippaudo era un ferroviere in pensione che nel 1945, quando c'erano i treni ma non c'erano gli orari, si inventò l'orario ferroviario tascabile. E la nipote in un'intervista racconta che gli orari venivano compilati a mano nel tinello della casa milanese e poi ricontrollati a voce uno per uno. Insomma, il mio treno da Novara era in ritardo e persi la coincidenza per Parma. Ebbi per di più la sfiga di arrivare in stazione centrale verso le 10.30, nell'ora che va dalle 10 alle 11.30 in centrale succede, o succedeva, adesso non lo so più, una cosa strana. In quell'ora lì non partono treni. Ripeto, non so se ancora oggi è così, ma negli anni in cui non vivevo a Milano e ci venivo in treno, quello era un orario maledetto perché non potevi andartene e rimanevi come imprigionato in una bolla. I treni non partono, i treni non arrivano, i passeggeri la smettono di correre avanti e indietro. C'è un silenzio innaturale in stazione, come se qualcuno avesse premuto il tasto pausa, e la stazione diventa una specie di bolla di nulla, assolutamente immobile. Quello strano stato di quiete mi rilassò. Mi presi un numero di tax che non avevo ancora e mi sedetti ad aspettare il treno per Parma. Non ho mai riprovato quella sensazione di bolla in una stazione, ma il racconto di Ettore mi ha fatto tornare la voglia di salire su treni diversi e scendere in stazioni sconosciute, fino ad arrivare in un posto che di solito si raggiunge solo in aereo. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Coraggiosi, furbi, contrabbandieri macedoni. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Ovviamente una foto del viaggio che ci ha appena raccontato, quello che ci ha mandato Ettore, che trovate sul nostro sito di Radio 24, radio24.it, alla nostra pagina di Voi Siete Qui. Andate a vedervela perché c'è lui proprio in posa, pronto per la foto, e alle sue spalle c'è una guardia, credo un militare cinese, e una pagoda. Io dico una pagoda nel senso che nella mia scarsa fantasia le case cinesi, quelle con i tetti che fanno un po', sai, verso l'alto, per me sono tutte pagode, ma sotto la pagoda un ritratto gigante di Mao Zedong, quindi lo immagino in piazza Tiananmen. Pronto Ettore? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Benissimo, grazie. Me lo confermi che in questa foto sei in piazza Tiananmen? Sono in piazza Tiananmen all'ingresso della città proibita. Ah, è proprio l'ingresso della città. Quello è l'ingresso della città proibita. E per entrare bisogna pagare un biglietto? Sì, bisogna pagare un biglietto che non è eccessivamente caro, però ecco, vale molto la pena perché veramente è un posto. Poi chi ha visto il film dell'ultimo imperatore veramente... certo, ha una sua idea. Ettore, certo. Io cercherò di essere un po' veloce perché ci sono mille cose che vorrei chiederti. Questa foto era di fatto una tappa del viaggio, no? Però tu avevi appena fatto tutta la Transiberiana. Tutta la Transiberiana, 7 giorni, 7 notti. Cosa si fanno? La prima domanda che mi andava, cosa si fanno 7 giorni, 7 notti su un treno? Come si passa il tempo? 7 giorni, 7 notti si sogna con i fantasmi che sono praticamente tutti quelli che hanno attraversato la Transiberiana. Rudolf Nureyev è nato sulla Transiberiana. Tutti purtroppo i deportati, Pasternak, che ovviamente dottor Zivago che va a Perm, e lì viene aiuriati allora nel film si chiama, ma tutti i personaggi, Strogoff, mi accompagnano questi personaggi, e poi le storie dei passeggeri, si fa amicizia con i passeggeri. Ma si i passeggeri nei doni, parmigiano per una polpetta, bellissimo. Ettore, i passeggeri stanno su tutto il tratto o no? Chiaramente possono scendere. No, loro sono praticamente si trasferiscono, vanno a casa da Mosca, vanno a casa. Il primo studente è Cesakhirov, che ha un giorno di viaggio, lui farà parte dello staff delle Olimpiadi di Sochi e mi ha veramente annegato di domande perché appena visto che era italiano non ti dico. E in che lingua parlavate? In inglese immagino. Lui in inglese, poi io prima di partire ho studiato il russo e quindi leggo e scrivo col dizionario, quindi avevo un dizionario, cedevo il dizionario e una parola già si capiva il discorso. In russo, ma scusami Ettore, tu cosa hai fatto? Sei in pensione adesso, giusto? No, io lavoro, c'ho un negozio di scarpe, ancora lavoro da 43 anni. Ah, e quindi hai mollato il negozio di scarpe per quanto? Per 3 settimane? Un mese? No, un mese e una settimana. Un mese, che periodo dell'anno era? 13 aprile, tornato il 17 maggio, sono molto scaramantico. E il tuo negozio di scarpe è a Siracusa, immagino, dove a abiti. Siracusa, sì, a Siracusa, sì. E invece tuo figlio vive in Vietnam, dicevi? Lui è da 2 anni e mezzo in Vietnam, è stato 10 anni in Thailandia. Io prendo da quasi 13 anni, vado sempre in sud-est asiatico, quindi conosco tutto quanto le zone, Cambogia, Laos, Thailandia e Vietnam. E hai una passione per l'Oriente particolare? Ti è venuta? Ce l'avevi già? Mi è venuta, è una cosa fantastica, non si può descrivere. Gli orientali, che ognuno è diverso dall'altro, il thailandese è diverso dal laotiano, dal cambogiano e dal Vietnam, ognuno ha la sua identità. Sì, questa cosa fai bene a dirla perché obiettivamente per noi quando uno c'ha gli occhi a mandorla è sì, cos'è? Cinese, poi magari è coreano, vietnamita, thailandese. No, assolutamente. Malese. Anche cinesi, un'altra cosa. E invece Ettore, torniamo un attimo su quel treno. Allora, rifacciamo velocemente il percorso. Tu in aereo arrivi a Tallinn, giusto? Sì, e sì. Da lì parte il viaggio, però già lì ti fai quanti treni prima di arrivare a Mosca? No, prima era bellissimo l'autobus, l'autobus che parte a mezzanotte. E quindi i personaggi che salgono a mezzanotte per attraversare la frontiera, 8 ore di viaggio in pullman fino a San Pietroburgo. Ma Ettore, scusi, ma tua moglie è a casa? Mia moglie in negozio, ma lei parte, siamo sposati dal 69, ci dividiamo un pochettino le ferie, prima va lei dal figlio, poi ci vado io. Io, questo è un viaggio, non è da signora, è un viaggio un pochettino duro. Un po' come i bagni del treno, che dice, mi è piaciuta l'espressione, i bagni non erano luoghi per signorine. No, neanche la stazione di Mosca è per signorine. Cioè, c'è stato mai un momento in cui hai avuto, non dico paura, però hai detto basta. Panico. Panico, sì. Alla stazione di Mosca. Ah, lì sì. Le mie scarpe piacevano a tanti. Le tue scarpe? Sì, sì, sì, sì. Un turco mi ha chiesto di vendergliele e lì ho capito, perché vedevo tanta gente disperata che cercavano i bagagli rubati. Ho avuto tanta paura. Quanto sei rimasto? Sono arrivato alle 7 di sera e sono partito a mezzanotte. A mezzanotte, quindi sei fatto un bel 5 ore. Posso dirla, senza pipì, perché non volevo abbandonare i 4 bagagli che avevo. Invece, scusami, la Transiberiana, gli scompartimenti, cioè dormi insieme ad altre persone ovviamente, non sì, hai... Sì, sì, sì, era un seconda classe, 4 cuccette, pulitissimo, e quindi si divide la giornata, quindi sai, si fa colazione, io ero autonomo, avevo tutto quanto da mangiare. Ma volendo uno poi può mangiare sopra, cosa c'è, una carrozza ristorante, un bar? C'è carrozza ristorante, molto triste, abbandonata, non la consiglio. Ah, ok, tu invece ti eri fatto proprio scorta di roba? Sì, al supermercato di San Pietroburgo, dove ho conosciuto due italiani amici di Spalletti. Chiaramente immagino che tu abbia decine di storie di vita. Dimmi chi è la persona più assurda che hai incontrato su quel treno, che ti è rimasta più impressa? Un australiano sulla Noi Da Nang, che era da 12 anni in giro per la cosa, che si era fatto monaco, sì, per avere il passaporto da monaco. Significa che prende il visto, lo può rinnovare ogni anno, mentre un turista è ogni mese o 2 mesi circa, lui ogni anno rinnova il visto e può andare a dormire e mangiare nei monasteri. Però usciva con le signorine. Ah, non è, esatto, non era particolarmente credente, non era... Ma diciamo, lui diceva, ah, completamente. Siamo usciti, meditation, però meditation le signorine non le trascurava. Ettore, 2 giorni fa che era Natale, tuo figlio è tornato a casa per stare con voi oppure... No, mia nuora è che milanese, con le nipotine, e mia è Colette. Colette perché mia moglie è francese, io mi sono sposato a Parigi, quindi abbiamo un nome italiano e un nome francese. Ettore, ma tu hai una vita interessantissima, devi mandarcene di più di racconti tra figli. Ma se poi ti posso per un anno posso raccontare, perché io ho 66 anni e da 27 anni viaggio, da 47 anni viaggio, Ettore, dal Nord Africa all'Europa all'Oriente. Ettore, voi siete qui, @radio24.it, quando vuoi noi leggiamo le tue storie, come tutte quelle che ci arrivano ovviamente, però continua a mandarcele. Io ti ringrazio e ti auguro un buon fine d'anno e un buon inizio, e in bocca al lupo per il prossimo viaggio. Auguri a voi e a tutti. Ciao Ettore, ciao, grazie, ciao, mille, ciao. E insomma, non capitano spesso ascoltatori come Ettore che hanno così tanti pezzi di vita da raccontare. 349-238-6666, grazie alla storia di Ettore, è quello che facciamo in ogni puntata, prendiamo il cuore di una storia o un pezzo della storia e cerchiamo di allargarlo. E oggi parlavamo delle stazioni della vostra vita, ne ha viste una marea, Ettore ci ha parlato sostanzialmente quella di Mosca, in cui ha passato quelle 5 ore particolari. Però Samir mi scrive: sono egiziano, la stazione della mia vita è quella del Cairo, enorme e caotica, ero bambino quando ci partì, ma la ricordo ancora spaventosa e splendida. Egidio, la mia stazione è quella di Marradi Palazzuolo sul Senio, sono nato lì e ogni volta che me ne andavo e che tornavo avevo quel luogo come addio e benvenuto. Marradi, Dino Campano, giusto, paese di Dino Campano, Toscana ancora, però è lì tra Toscana ed Emilia. Abbiamo chiuso anche oggi 27 di dicembre, grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Continuate a mandare storie di viaggio e non, voi siete qui, @radio24.it, e se non ce la fate o non avete voglia, scaricatevi i podcast dal sito di Radio 24. Grazie a tutti, grazie soprattutto ad Ettore, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Francesca, sono di Treviso, la storia di lunedì è la mia e racconta di un viaggio, il mio viaggio verso l'emigrazione. Questa è la mia storia, io sono qui.